Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, vigilia di Natale. L'occasione migliore per fare un piccolo regalo ai bambini che ci seguono, qualcuno c'è, non crediate, ma direi ancor più ai loro genitori. Guidare, cioè, a un approccio corretto al calcio attraverso le parole della massima autorità sportiva attuale in materia, uomo che è stato calciatore, allenatore, che da molti anni ormai ha abiurato al calcio dei grandi per dedicarsi a quello dei piccini. Bentornato dunque a Massimo Giacomini. Grazie, ciao, buonasera a tutti. Massimo Giacomini è un amico personale da anni, è un amico vostro, lo conoscete. Come sapete è il presidente del settore giovanile scolastico, che è un ramo della Federazione Italiana Gioco Calcio che si occupa per l'appunto dell'età giovanile. Allora Massimo, cominciamo col ricordare da che età a che età sono compresi i ragazzi sotto la tua giurisdizione. Allora, noi abbiamo... settore giovanile scolastico, l'attività calcistica si configura attraverso tre settori di intervento. Allora c'è un'attività di base, che è attività promozionale e didattica nei confronti delle società per i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze dai 5 ai 12 anni. Vale a dire, qui c'è l'aspetto prevalente, quello ludico, non ci sono classifiche, i risultati dovrebbero contare solo per i ragazzi, non per gli adulti. Purtroppo talvolta non è così. Non è così. Poi abbiamo l'attività scolastica, un'attività promozionale didattica, anche questa nei confronti delle istituzioni scolastiche per i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze da 5 a 16 anni. Mm-hmm. Anche qui ovviamente c'è un aspetto ludico, le manifestazioni hanno sempre lavorano su due fronti, uno sportivo, di solito si pratica del calcio in cinque, no? Sì. Tra le varie classi, sia maschile che femminile, e poi un aspetto culturale, un aspetto didattico, vale a dire si richiedono degli articoli a tema, dei video, cioè delle cose, dei manifesti che ne qualifichino sotto l'aspetto culturale quella classe. E poi c'è infine, diciamo, ma non è l'ultima, c'è l'attività agonistica, attività di indirizzo agonistico per i ragazzi e le ragazze dai 12 ai 16 anni, perché abbiamo detto che dai 5 ai 12 l'attività è ludica. Questa è agonistica, dove si fanno i campionati, ci sono retrocessioni, chi vince va a fare le finali nazionali e giovanissimi ed allievi, c'è lo scudetto per i giovanissimi e per gli allievi professionisti, per i dilettanti e per quelli della Lega Pro, che non giocano nel campionato giovanissimi e allievi professionisti assieme alle squadre di Serie A e Serie B, che sono obbligate a partecipare. Mentre le squadre della Lega Pro di prima e seconda divisione, l'adesione è facoltativa, però ovviamente ci sono anche le finali per quelle che non partecipano al campionato nazionale allievi e giovanissimi, in maniera che nessuno è escluso da arrivare alle finali, per cui c'è una finalità, i giovani vengono addestrati, ovviamente chi poi vorrà continuare all'agonismo che poi troveranno nelle categorie superiori. Massimo, stiamo parlando, tu hai delineato queste tre categorie, come sono raggruppate e soprattutto quali sono i margini, no? Operativi, diciamo, all'interno di ciascuna, di cui poi parleremo magari in dettaglio. Di che massa di bambini e di ragazzi stiamo parlando? Di che numeri? Di 720.000, circa su per giù, da 710 ai 620.000, perché i piccoli amici, vale a dire 5, 6, 7 anni, ovviamente talvolta ci sfugge con precisione il discorso del tesseramento. Uh-huh. È molto più facile comprenderlo dai pulcini, cioè dagli 8 fino ai 16, però tendenzialmente c'è stato un aumento e andiamo dai 110 ai 100, cioè dai 710.000 ai 710.000, in una stima che ha una certa prudenza, insomma, ecco. Sì. che è una certa prudenza, ma che porta comunque a un numero ragguardevolissimo. Dunque, io vorrei cominciare da qua. Il calcio di oggi non gode, e sono certo che tu, cioè so che tu sei d'accordo con me, il calcio degli adulti non gode certamente di una grande immagine, tantomeno da un punto di vista educativo. Allora io vorrei cominciare a far l'avvocato del diavolo e a chiederti, così proprio con molta semplicità, perché un genitore oggi dovrebbe avviare il proprio figlio al calcio? Ma sai, il discorso è questo: il gioco del calcio è un gioco che piace. Piace e non ci devono essere altre motivazioni per che i ragazzi vogliano partecipare e vogliano aderire al gioco del calcio. È evidente che contemporaneamente anche i genitori sono, gran parte sono portati così ad avere le squadre del cuore, quindi l'avviamento al gioco del calcio è un discorso che riesce abbastanza facile, abbastanza semplice, perché nel gioco del calcio giocano tutti, no? Quelli più piccoli, quelli più grandi, quelli un po' grassi, quelli un po' magri. Non ci sono delle situazioni che differenziano fisicamente, dove in altri sport invece ci vogliono determinate attitudini. Certo. Poi sai, chi sarà più abile, diventerà più bravo, continuerà, gli altri si accorgeranno che non ce la fanno e quindi andranno a giocare così per divertimento la domenica con gli amici, andranno a vedere le partite, perché indubbiamente c'è una grande preoccupazione di selezionare precocemente i ragazzi, ma dal mio punto di vista è un grave errore, perché i ragazzi poi capiscono perfettamente se possono giocare ad un livello o non possono giocare. Perché? Perché se non si divertono capiscono che sta succedendo qualcosa, e se i ragazzi non si divertono a un certo momento si tolgono automaticamente dal gioco e tentano di andare a fare un altro gioco dove si divertono o si divertivano come prima nel calcio. Per cui questa mania di selezionare da molto giovani mi sembra una cosa assurda, perché automaticamente i ragazzi si selezionano da soli. Però bisogna avere la forza e la pazienza di lasciare che loro sviluppino tutte le qualità che hanno, la loro autonomia, la loro libertà. Talvolta invece in una selezione precoce alcuni che sono in fase di mutazione vengono eliminati, cioè non vengono considerati, e lì è magari un brutto colpo per il ragazzo, ci rimane male e poi ovviamente non vuol più giocare. L'importante è non confondere il calcio dei professionisti, degli adulti, con quello dei bambini. È una cosa completamente diversa, perché se facciamo questo errore carichiamo dei bambini di responsabilità, di una tensione che loro non riescono a reggere. Certo. In questo caso ci sono dei picchi di abbandono che noi rileviamo con le nostre statistiche, che vengono dati soprattutto da questi fatti, dal fatto che uno si sente troppo responsabilizzato e quindi gli si crea una grande tensione quando gioca, non ha ancora l'età, la maturità per sopportare questo tipo questo di tensione, carico, che gli viene non tanto non viene da se stesso, perché una certa emozione c'è sempre, ma viene dall'ambiente, ovviamente talvolta dall'allenatore, dai dirigenti, talvolta, ho detto, ma comunemente viene molto dai genitori. Certo, questo è il problema vero. Infatti io volevo rifare un passetto indietro e dirti: allora, supponiamo che dopo aver fatto l'avvocato del diavolo, supponiamo che tu questi genitori li abbia convinti, e può darsi benissimo, da come hai parlato, che tu li abbia convinti. Diamogli qualche consiglio pratico, cioè dove lo iscrivono sto ragazzo, che trafila fanno, come... Ci sono in tutta Italia un numero di scuole calcio estremamente elevato, e di centri calcistici di base. Ovviamente i centri calcistici di base hanno un'organizzazione, diciamo, un po' più artigianale. Le scuole calcio devono aderire a certi criteri, e poi c'è un'elite, le scuole calcio qualificate, che devono aderire a dei criteri che sono ancora ovviamente tra virgolette più sofisticati. E in una di queste scuole calcio il bambino può essere iscritto a 5 anni, perché ovviamente è virtualmente un tesseramento dove il bambino è coperto da assicurazione, sì, da 5 anni, e poi può andare avanti ovviamente nell'attività di base fino a 12, come abbiamo detto, e poi proseguire nell'attività agonistica, ma se un bambino vuole giocare al calcio, sicuramente in tutte le città, io ritengo anche nei paesi delle province italiane, c'è una scuola calcio o un centro per l'attività di base, un centro calcistico. Adesso mi piacerebbe che tu facessi un triplo intervento, diviso ovviamente. Il primo è questo, che tu, visto che siamo in un pomeriggio, un primo pomeriggio di vacanza, ed è più probabile per l'appunto che ci siano anche dei bambini in ascolto, allora mi piacerebbe che il presidente del settore giovanile scolastico, che poi è anche padre ed è anche nonno, si rivolgesse innanzitutto ai bambini, poi lo faremo con i genitori e con gli istruttori, ai bambini dandogli qualche idea di comportamento, cioè tu ne stai accompagnando idealmente uno adesso a una di queste scuole calcio, a uno di questi centri federali all'inizio di un'attività, tenendolo per mano, che cosa gli dici? Il discorso è molto semplice. Noi dobbiamo contattare i bambini in modo con sensibilità, essere credibili ed essere sinceri, ed è questo è molto importante. Allora noi è evidente che dobbiamo favorire lo sviluppo delle potenzialità sportive umane di questi ragazzi e soprattutto ricordare loro che il gioco, quando giocano, è in mano loro, e invece quando loro si allenano è in mano dell'istruttore. Sì. Per cui il discorso poi di trasferire quello che fanno durante la settimana con l'istruttore nella partita è una cosa che devono chiarire nella loro testa, in modo che, scegliendo i gesti tecnici che loro ritengono più opportuni, abbiano la più ampia libertà ed autonomia. Allora, un ragazzo deve, quando si allena, deve stare attento a quello che gli dice l'istruttore e soprattutto poi tradurre, mediandolo attraverso la sua autonomia e libertà, durante la partita. Il discorso con i ragazzi non è che si deve parlare molto. Sì. I ragazzi bisogna ascoltarli, perché di solito in questa società nessuno li ascolta. Allora il problema è questo, no? Noi dobbiamo ascoltare i ragazzi, dopodiché cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pensare che i sogni sono parte integrante della loro vita, allora dobbiamo aiutarli a sognare e dobbiamo anche trasmettere loro i veri valori della vita. Quindi è un discorso che nasce in una persona che sì, deve sapere curare anche la parte tecnica, ma deve anche saper ascoltare, saper farli sognare, insegnargli quali sono i valori della vita e soprattutto tener presente che i bambini hanno il diritto che gli adulti gli insegnino quali sono i loro doveri. E non dimenticare questo, perché i doveri talvolta nascono naturalmente alcuni, altri invece vanno insegnati, come vanno insegnate tutte le cose. Per cui io credo che non bisogna parlare a lungo con i bambini, perché l'attenzione dei bambini è molto limitata, no? Ma anche degli adulti tende a scemare, esatto. A maggior ragione dei bambini. Noi, certo. Noi sappiamo che all'università l'ora è di 40 minuti, certo. Nel senso, perché si ritiene ovviamente che dopo 40 minuti anche l'attenzione di un adulto e di uno abituato a studiare scemi e venga meno. Allora noi dobbiamo pensare che i bambini non possono stare attenti più di 4 minuti. Io credo, no? Certo. Ma se noi siamo efficaci, essenziali, credibili in quei pochi minuti, diamo delle linee che sono le linee, i paletti che sono il discorso generale. Dopodiché, quando a fine allenamento parliamo con loro, non parliamo virtualmente, facciamo delle domande e vogliamo sentire cosa dicono loro. Lì li ascoltiamo, perché è estremamente interessante sentire quello che dicono i bambini oppure leggere quello che i bambini scrivono. E sai, per un settore giovanile che abbia un senso, bisogna considerare, non considerarlo una spesa, ma un investimento. Ci vogliono dei bravi maestri e poi pazienza. pazienza e... La cosa che è abbastanza un po' difficile nella nostra società, perché tutti vanno di fretta. Già. Qui invece per il gioco del calcio bisogna avere pazienza. Pazienza, ascoltarli, ascoltare i loro sogni e aiutarli a sognare. Beh, mi sembra un bel inizio. Allora, in questa prima parte, dopo aver introdotto l'argomento e dopo aver classificato tutte le attività del settore giovanile e scolastico, Massimo Giacomini ha parlato ai bambini, o meglio, ha spiegato come ci si deve rivolgere ai bambini e soprattutto con quanta attenzione, con quanta pazienza li si debba ascoltare. Adesso mi piacerebbe che tu ti rivolgessi ai genitori, Massimo, perché lo hai già introdotto prima, involontariamente, certo, ma spesso sono loro i primi a sbagliare. Volevo concludere il discorso sui bambini un momento, perché mi sono venute in mente alcune cose. Ad esempio, il discorso che va fatto ai bambini è quello di rispettare i propri compagni e le avversarie, cioè il rispetto delle decisioni arbitrali, vale a dire il rispetto delle norme, che è una cosa molto importante. E poi, questo già in tenera età, sì. Esatto, poi il discorso della lealtà, che è molto sentita dai bambini, poi nel discorso del rispetto c'è anche il rispetto della propria salute. Abbiamo già detto di ascoltare i consigli dell'istruttore, che è logico. Io direi anche lottare per e mai contro. Si lotta per vincere, non siamo contro, no? si gioca per divertirsi, è questo il discorso, il per e non il contro. E poi continuare a divertirsi come quando si gioca sotto casa, come quando si gioca al parco, cioè come quando si gioca sulla spiaggia, come quando io vedo giocare Messi del Barcellona, che mi sembra che giochi nel cortile di casa. Sì, è vero. Che dia questo fatto, non perdere mai di vista il fatto di divertimento. Poi per quanto riguarda i genitori, il nostro è un invito, ovviamente, no? Considerare il figlio sempre e comunque come una persona, no, da educare, e non certo come un campione da allenare, cioè non fare dei conti in prospettiva sul futuro del figlio, ma pensare ad educarlo, a farlo giocare, che si diverta e che non sia un campione da allenare. E poi anteporre assolutamente quello che è il benessere fisico, direi anche psichico, del giovane, psicologico, cioè il benessere del figlio deve andare oltre la voglia e il desiderio di vederlo vincere. E questo deve essere un punto chiave, perché la salute dei nostri ragazzi è un fatto estremamente importante, per cui il desiderio che il ragazzo stia bene, che si diverta, deve andare oltre al desiderio di voler vederlo vincere, che non ha fondamentalmente un senso, no? E poi così mettersi in accordo con gli istruttori, no? Gli operatori sportivi, in modo da non contrastare e da non creare confusione nella testa del bambino, che è molto importante che ci sia un indirizzo unico. E oltretutto, un'ultima cosa, che questa la devo dire, essere se possibile un tifoso rispettoso. Sì, cosa che non... incoraggiando, possiamo dire, in maniera leale, non solo la propria squadra, ma direi evitando di insultare l'altra, per cui è come se incoraggiasse anche l'altra. Voglio dire, cioè un comportamento leale da tifoso, un comportamento rispettoso, perché in questo modo continuerà a trasmettere un aspetto altamente educativo e pedagogico a suo figlio. Questo è un invito che va fatto, io credo che assolutamente non sono delle cose estremamente difficili se uno riesce a usare molto spesso il cervello e un po' di meno la pancia, insomma. Questo è il discorso. Sì, questo è un discorso. Ti ascoltavo con attenzione e mano a mano che andavi avanti crescevo ovviamente lo scetticismo, nel senso che è un discorso che sembra fatto su Marte, questo, no? Visto il contesto sociale in generale e sportivo in particolare in cui però viviamo. Però abbiamo avuto dei riscontri che ci hanno dato grandi soddisfazioni. Ad esempio, sai, noi il torneo esordiente si chiama torneo Fair Play, c'è la green card che ci segnalano i gesti di lealtà, i gesti di fair play. Cioè, abbiamo rilevato, ad esempio, nelle nostre finali, assolutamente, dove ci sono ragazzi ovviamente di 16, 17 anni, di 14, 15, abbiamo rilevato comportamenti da parte delle squadre professionistiche e anche delle squadre dilettantistiche di assoluto rilievo sotto l'aspetto educativo e anche ovviamente sotto l'aspetto tecnico. Abbiamo fatto l'altro anno a Città di Castello per le quattro finaliste dei giovanissimi nazionali professionisti e degli allievi professionisti, c'erano Inter Empoli e Atalanta Empoli. L'Empoli in finale è arrivata seconda in tutte e due le finali. Abbiamo fatto un vero terzo tempo in un tendone che era stato steso dalla Protezione Civile, tutti sotto con gli arbitri, con i dirigenti eccetera, a mangiare, a scherzare, a cantare le canzoni, a prendersi in giro. Beh, questo è molto bello. Io tra l'altro ho una... E gli sconfitti si sono comportati veramente in maniera da elogiare, in assoluto. Ma il mio riferimento a Marte non era certamente per i bambini o i ragazzi o i giovani, era sui genitori che avevo però qualche anche dubbio in più, però c'erano anche i genitori. Avevamo la tribuna piena, ovviamente. Bene. Però insomma, se si intraprende una linea e la si porta avanti, insomma, questi genitori non sono poi così cattivi. No, i risultati arrivano. Come sembrano, no. Sembrano talvolta, però se si parla con loro, bisogna parlare con loro. Infatti io dico sempre che i dirigenti devono informare i genitori sulle norme che regolano l'attività di base scolastica, no? Su quello che è il progetto educativo della scuola calcio, ricordando loro che non so, il risultato non è l'aspetto più importante. Cioè è importante che noi facciamo ad esempio delle manifestazioni dove si giocano anche delle partite, ma si fanno anche delle esercitazioni che danno un punteggio. Poi alla fine risulta vincitore chi ha fatto sia nelle partite sia in queste esercitazioni il punteggio migliore, o come in altri casi si aggiungono anche gli aspetti culturali e pedagogici. E talvolta i genitori rimangono sbalorditi perché la squadra del loro figlio non ha vinto, perché ad esempio durante la partita hanno vinto loro, ma evidentemente gli altri avevano fatto nelle esercitazioni meglio, magari vincono gli altri. E perché protestano? Semplicemente perché non gli è stato spiegato qual è il regolamento, che si basa su un principio diverso, molto più ampio che la specifica gara, e che gli va spiegato di non confondere il gioco e i giochi del settore giovanile scolastico con il calcio dei professionisti. Certo. Perché è questo. Ecco, allora ai dirigenti c'è questo invito in assoluto, no? E soprattutto anche di sostenere quello che è il lavoro dei loro tecnici con serenità, senza pretendere risultati, al fine di ottenere, cioè, gli effetti desiderati, sia tecnici che però anche quelli di partecipazione. Per cui se noi mettiamo assieme quelli che sono gli effetti della partecipazione, alla fine attraverso la partecipazione possiamo avere anche gli effetti tecnici. Certo. Qui attraverso una partecipazione, attraverso l'educazione, alla fine avremo dei risultati tecnici, io dico, migliori. Tu hai parlato prima, hai ricordato l'esperienza di Città di Castello. Prima della fine di questo appuntamento io ho messo da parte qualche mese fa una lettera di un ascoltatore che poi ti leggerò e che da tempo pensavo potesse essere un piccolo regalo di Natale per te. Abbiamo una terza componente a cui rivolgerci, e cioè gli allenatori e i tecnici. Come si devono comportare per essere davvero degli insegnanti? Ecco, noi invitiamo, capisci, a favorire lo sviluppo di questi ragazzi, ma soprattutto le potenzialità sportive ed umane, perché ogni ragazzo, ogni bambino ovviamente ha determinate potenzialità. intravederle, non pretendere tutto e subito, intravederle e quindi sviluppare le potenzialità sportive ed umane dei ragazzi e soprattutto organizzare attività divertenti che siano in senso motorio, cioè sì, che siano motoriamente in senso motorio coinvolgenti e soprattutto anche sotto l'aspetto psicologico, vale a dire che siano delle cose un po' esaltanti, delle cose che piacciono e contemporaneamente danno soddisfazione. Per cui direi che questo è un fatto molto importante e che poi alla fine facciano presente sempre a tutti che la partita, no, è fatta per i bambini, non per gli adulti. Non per gli tenere osservi. Presente questo, no, che è loro la partita, fa parte della vita dei bambini, non degli adulti. Gli adulti devono guardare, correggere, quando è il caso, ovviamente, commentare il meno possibile e appunto lasciarli giocare e divertirsi. Questo è il discorso, come abbiamo accennato prima, che la partita è per i bambini, ma soprattutto lasciarla in mano ai bambini che autonomamente, liberamente la giochino, nel rispetto delle regole, come abbiamo detto prima, no? Certo. Sì. E capisci, il calcio è tutto questo, cioè è aggregazione, è socializzazione, è sacrificio, è amicizia, è divertimento, è abnegazione, è fantasia, è creatività, è rispetto delle regole, rispetto di se stessi, abbiamo detto, dei compagni, degli avversari, dell'arbitro, rispetto delle regole, è lealtà. Allora io voglio dire, mi domando, ma uno sport che dentro di sé ha tutto questo, perché non può essere anche educativo? Io vorrei qualche risposta, ogni tanto. Invece di darle tu le risposte dopo questa arringa appassionata, saresti tu a volerle, lo so, saremmo in tanti a volerle, però siamo travolti, cioè il calcio è stato travolto, come sappiamo, da interessi economici, commerciali e finanziari. Caro Presidente, allora ci siamo, anzi ti sei rivolto ai bambini, poi ai genitori, poi agli allenatori, ai tecnici, insomma ai responsabili di quel genere di parte. Io credo che adesso una parola ai dirigenti, ai responsabili scolastici potrebbe essere opportuna. Sì, noi abbiamo un rapporto, direi, veramente preferenziale nei confronti della scuola, abbiamo un ottimo rapporto con il Ministero della Pubblica Istruzione, con il quale abbiamo progettato e presentato un progetto veramente straordinario che si chiama I Valori Scendono in Campo, che verrà attuato in 10 regioni italiane e ovviamente con la collaborazione dei coordinatori provinciali e regionali del Ministero della Pubblica Istruzione e con i nostri coordinatori regionali, federali e regionali. Noi ovviamente abbiamo una linea di privilegio nei confronti della scuola, perché riteniamo di poter affiancare la scuola e la famiglia, che sono le agenzie educative tradizionali, nell'intento di aiutarle, ripeto, qualora ne fosse bisogno, all'educazione dei ragazzi. Certo. Per cui io ritengo che se i dirigenti scolastici e gli insegnanti favoriscono la pratica del calcio giovanile in ambito scolastico, per incidere in fondo sulla trasmissione dei valori che sono intrinseci nel gioco del calcio, no? Nella disciplina del gioco del calcio, l'abbiamo detto prima, mm-hmm. I valori. Il calcio, cioè inteso come un gioco sportivo che promuove la collaborazione e lo spirito, cioè collaborazione, lo spirito di iniziativa, così come l'adesione, cioè l'adesione totale a comportamenti di correttezza verso i compagni e gli avversari, l'abbiamo accennato prima, certo. E la capacità di prendere rapidamente decisioni efficaci. Quando io parlo di autonomia e libertà, che il calcio insegna è proprio questo, è questo. La capacità di prendere rapidamente decisioni efficaci. Ecco, io non mi sento di rivolgere altro ai dirigenti scolastici, perché abbiamo, ripeto, un ottimo rapporto. Abbiamo questo presentato all'Acqua Cetosa il giovedì 11, questo progetto I valori scendono in campo, dove c'è tutta una parte sportiva, una parte culturale, dove si parla dei miti, della storia, della geografia. Cioè, i miti sono i grandi calciatori, ovviamente, la storia è il gioco del calcio: si giocava a Firenze, si giocava in Cina, si giocava agli Incas con l'Anca, lo giocavano, e tutta questa storia. Poi Messi di dov'è? Argentina. Di dove? Di Buenos Aires. Dov'è l'Argentina? Insomma, ecco, tutto un discorso che porta avanti, certo, che i nostri miti, i nostri valori, tradizioni, la nostra storia, e ci mettiamo in mezzo la geografia e tutto il resto. Molto bello tutto ciò, molto bello anche questo secondo riferimento a Messi, che è davvero, no, che è davvero il bimbo che tutti noi sogniamo, no? Perché io dico, la tecnica è leale, no? Perché un giocatore come Messi, che è tecnicamente un giocatore squisito, io credo che non, forse riesce a fare un fallo ogni 10 partite. Sì, ma per caso, perché forse scivola, non so. Certo. Per cui mi viene spontaneo parlare così di lui. È ovviamente un giocatore che tutti conoscono. Ed è anche un modello ideale per i bimbi. Senti, parliamo di fasce di età. Tu l'hai introdotto a grandi linee all'inizio, però mi piacerebbe che lo ripassassi ai bambini, visto che, ripeto, questo programma è dedicato a loro. Cioè, mi piacerebbe, quali sono rispettivamente le tappe di crescita di un calcio corretto scolasticamente? Cioè, il gioco puro e semplice, quando arriva poi la tecnica individuale, quando arriva la tattica, quando arriva l'agonismo? Allora, noi partiamo dai piccoli amici, da 5-7 anni, e ovviamente i piccoli amici si bada soprattutto alla coordinazione motoria, all'acrobatica elementare, alle cose, diciamo, più semplici e più facili che un bambino di quell'età può fare. Ovviamente poi li si fa giocare in modo libero e si insegna una tecnica, si fa qualche correzione, che però ovviamente i bambini non sono ancora all'altezza di comprendere molto bene, e quindi c'è tutta questa fase, diciamo, di adattamento a una situazione. Poi sfocia con i pulcini, che vanno dagli 8 ai 10 anni, dove si comincia a giocare a 6, poi a 7, e quindi già si comincia con le regole, si prosegue sempre sotto l'aspetto dell'acrobatica elementare, della coordinazione motoria, ovviamente, e di tutte queste forme libere. E ovviamente si fa prendere sempre più confidenza con l'attrezzo, sia con giochi diversi, anche con giochi con le mani e con i piedi, ovviamente soprattutto con i piedi, ma anche con le mani, in maniera che i ragazzi prendano sempre più confidenza con l'attrezzo che dovranno poi domare in seguito, quando si comincerà, dopo, quando diventano esordienti, si comincerà a giocare a 9, ovviamente, poi si arriva al traguardo, al grande traguardo. Esordienti a 11, e poi ovviamente la fase agonistica, compiuti 12 anni in poi, dei giovanissimi e degli allievi, si gioca sempre a 11 con le regole assolutamente degli adulti, tolto il fatto che i giovanissimi giocano mezz'ora per tempo e gli allievi 40 minuti per tempo. E quindi questo è la trafila, un inizio che deve essere rivolto a, diciamo, anche ad altre discipline, a cose diverse, in maniera che i bambini si divertano e prendano confidenza con l'attrezzo, per poi logicamente convogliare, da quando sono pulcini, il discorso sul calcio, sul gioco del calcio specificatamente. Ovviamente la tecnica individuale deve essere un fatto dominante, anche perché ai bambini certi lavori, diciamo, fisici non vanno fatti assolutamente, e quindi lo spazio per il discorso è un discorso di ginnastica a corpo libero, ripeto sempre, di coordinazione motoria, acrobatica elementare, le cose che i bambini possono fare con grande tranquillità. Bisogna stare molto attenti al rispetto delle fasce di età, perché ovviamente in una certa fascia d'età non si deve fare né di meno né di più di quello certo. Che nelle possibilità di quella fascia. Com'è? E ovviamente noi abbiamo una guida tecnica molto importante in italiano, che abbiamo tradotto in inglese e che ci è stata richiesta da tutte le ed è stata inviata dal nostro presidente federale alle 53 nazioni della UEFA in doppia copia in inglese. Ha avuto un successo formidabile, abbiamo avuto richieste, non so, dall'Olanda di poterla tradurre in olandese, abbiamo avuto richieste dagli Emirati Arabi, cioè è una guida loro serio. No, della scuola calcio, cioè dell'attività di base dai 5 ai 12 anni, ed è importantissima, con tutta una serie di esercitazioni importanti, con tutti i principi, con tutto quello che ci poteva essere dentro, è stata fornita e ha avuto un largo e ampio successo. È stata fatta dal presidente Paponetti, sì. Era stata ristampata dal presidente Agnolini, io poi l'ho ristampata e l'ho fatta stampare in inglese. Io ovviamente con Paponetti, col presidente Paponetti, presidente Agnolin, facevo il vicepresidente, per cui conosco l'iter di questa, certo. questa guida tecnica, direi a meno dito, perché l'ho vissuta e ho partecipato dalla nascita fino ad adesso. Certo. Senti, le manifestazioni e le iniziative principali del settore giovanile e scolastico per i bambini, cioè le occasioni di ribalta e di vetrina, qual è il traguardo che un bambino ha nell'ambito del settore? Ma allora, il discorso nasce con noi facciamo delle manifestazioni, cioè una manifestazione molto popolare, molto simpatica, è Strada Calciando. Vale a dire che si va a giocare nelle strade. Di una piazza, ad esempio, prima della partita contro il Sudafrica a Siena si è giocato in Piazza del Campo, logicamente si fanno una serie di campi e poi giocano bambini e bambine, giocano 5 contro 5 e contemporaneamente c'è tutta questa marea di bambini, talvolta 800, talvolta 1000, talvolta non so, l'abbiamo fatto al Parco Trenno lì a Milano, a San Siro. L'abbiamo fatta nella piazza di Montepulciano, straordinaria, e questa è Strada Calciando. Poi c'è il fan football, ovviamente per i più piccini, poi il Sei Bravo a puntini puntini scuola calcio, dove ovviamente si fanno delle selezioni provinciali e regionali, e poi vengono a Coverciano la squadra maschile e femminile, e qui si va fino alle medie. Sì. Vengono le finaliste, coloro che hanno vinto le varie selezioni, vengono a Coverciano, due per regione, una squadra maschile e una femminile, che poi lì giocano e si passa la mattinata e alla fine vengono premiati, logicamente c'è un premio uguale per tutti, e questa è e dopo abbiamo l'altra fase delle finali della fase agonistica, vale a dire le finali dei giovanissimi allievi professionisti, giovanissimi allievi dilettanti, sì. quella della Lega Pro di prima e seconda divisione, e poi le finali delle rappresentative regionali giovanissimi ed allievi, per cui c'è tutta una serie di manifestazioni. Certo, per cui è un bel panorama variegato e che copre tutte le fasce di età. Inoltre noi abbiamo il discorso di questa manifestazione I Valori Scendono in Campo, che sono su 10 regioni, un'altra manifestazione che stiamo definendo che sarà fatta in tutte le regioni, in più ogni coordinatore federale e regionale ci segnala un progetto che noi valutiamo e poi, se lo riteniamo valido all'altezza della situazione, lo finanziamo, per cui i progetti possono essere vari, ma soprattutto vengono accettati quelli dove c'è il caso. calcio, l'educazione, certo, ovviamente l'aspetto pedagogico, educativo, culturale e l'aspetto anche sportivo. È una selezione che voi fate. Ho tenuto da parte per molto tempo questa mail firmata Enzo Cozzeri, Città di Castello, e speditami nello scorso mese di giugno. La leggo con piacere non soltanto a Massimo Giacomini, ma soprattutto agli ascoltatori. Si sono tenute qua a Città di Castello, scrive Enzo Cozzeri, le finali dei campionati di calcio allievi e giovanissimi. La scuola calcio che frequenta mio figlio, 7 anni, doveva accompagnare in campo i giocatori delle squadre finaliste. Al momento della consegna delle magliette azzurre della federazione e dei cappellini, ho sentito la voce di un signore che aiutava i bambini a indossare le magliette e scherzava con loro. Ho riconosciuto una voce non nuova, gli ho chiesto se per caso avesse partecipato alla sua trasmissione. In effetti, quel distinto signore, altri non era che l'ex allenatore Massimo Giacomini, presente in veste di presidente del settore giovanile scolastico. È un portatore sano, scrive testualmente questo signore, è Massimo Giacomini un portatore sano di educazione e di classe. Clonatelo. Beh, non so quanti complimenti hai ricevuto in vita tua di questo livello, eh? Allora ti girerò questa mail che, ti ripeto, ho tenuto per tutti questi mesi, che mi sembrava un bel regalo di Natale per uno che ci mette la passione che ci metti tu. Massimo, siamo arrivati alla conclusione di questo intervento. Torna a rivolgerti a bambini, genitori, insegnanti, ma soprattutto ai bambini per ricordare insomma la sintesi, per estrarre la sintesi da tutta questa lunga conversazione sul calcio giovanile. Sì, io in sintesi voglio dire che il settore giovanile scolastico, per dare seguito in ogni luogo in cui si svolge l'attività sportiva calcistica, cioè per dar seguito virtualmente a quanto precedentemente ho detto, si impegna a fare determinate cose attraverso delle azioni mirate. Cioè, vale a dire, noi ovviamente ci impegniamo a sostenere lo sviluppo del benessere del bambino e quindi anche indirettamente della sua famiglia. Sì. Cioè, prevenire il disagio dei bambini, delle bambine, dei ragazzi, delle ragazze e degli adulti, perché con il dialogo che dovrebbero sostenere i dirigenti nei confronti dei genitori, con delle riunioni che dovrebbero fare, noi vogliamo che si tolga quel disagio che talvolta c'è e soprattutto che si tolgano determinate barriere che magari possono sorgere. Poi facilitare l'inserimento di tutti quei bambini che vogliono fare sport attraverso il calcio, perché abbiamo già detto che non occorrono altre motivazioni per i bambini per venire, per le bambine. Io vi dico bambini, ma dovete tenere presente che intendo anche sempre anche le bambine. E certo, l'attività è dubbia, cioè, si capisce. Cioè, facilitare l'inserimento di questi bambini che vogliono giocare al calcio, prevenire comportamenti e soprattutto la nascita di ambienti a rischio, cioè, nel senso che i luoghi devono essere ovviamente sorvegliati, ma dentro questi luoghi dove si fa l'attività e vengono sorvegliati, i bambini devono essere assolutamente liberi, certo, e autonomi, certo, di esprimere fantasia e creatività, però ovviamente attenzione che non nascano degli ambienti a rischio. Cioè, bisogna tenere presente che innanzitutto la prestazione fisica, e io dico anche mentale, non sia eccessiva. Come accennavamo prima, le fasce di età che non carichiamoli troppo, soprattutto da bimbi. Esatto, la prestazione fisica, ma anche mentale, io dico, non sia eccessiva. Il confronto sia equilibrato e soprattutto rispettoso di quelli che sono i bisogni dei bambini e dei ragazzi. Cioè, il confronto equilibrato si intende ascoltiamo questi ragazzi, anche che non ci sia soltanto uno che comanda perché è adulto e gli altri devono ascoltare, quindi direi il confronto equilibrato. L'attenzione agonistica, ne abbiamo parlato prima, non sia esasperata nella ricerca del risultato ad ogni costo, perché quando il ragazzo lo si carica troppo e porta con sé un'alta tensione, innanzitutto gioca male, secondariamente non riesce a sopportare questo tipo di pressione data dalla tensione agonistica. Ed infine direi, no, che venga data la possibilità di partecipare e di esserci sia a chi è capace, ma anche a chi lo è un po' meno, nel senso il diritto di non essere un campione. Per cui partecipino e ci siano sia chi è capace, ma anche chi lo è un po' di meno. No, il discorso certo. È questo. Certo. Il discorso è molto semplice e si riferisce ovviamente al diritto di non essere un campione. Cioè, nel senso che i bambini sperimentano, quando sperimentano in un nuovo contesto di apprendimento, sono tutti campioni. No, perché se stanno sperimentando, le do un campione di questa merce, no? Perché se loro stanno sperimentando sono tutti campioni, perché stanno provando a fare qualcosa che conoscono solamente nella rappresentazione, nella sua rappresentazione. Cioè loro stanno facendo qualcosa che hanno visto, no? nella rappresentazione, e stanno imparando a giocare, stanno imparando il gioco del calcio. Per cui il discorso, usando questo metodo, talvolta si hanno delle grandissime sorprese, dove qualche ragazzo che sembrava non essere molto portato, adatto al gioco, invece poi diventa un campione, nel senso che io potrei fare dei nomi, non li faccio perché non è il caso, però se ci ripensiamo e riflettiamo un po', possiamo trovare tutti, perché tutti abbiamo conosciuto nella nostra vita qualcuno che quando è arrivato a giocare in Serie A ci ha meravigliati tutti, perché pensavamo che non fosse avrebbe all'altezza. Potuto arrivarci. Certo. Massimo, io credo che la passione con cui ci hai aiutato, ci hai guidato in questo viaggio di questa vigilia di Natale sia una cosa rara. Ho selezionato in particolare due frasi che mi hanno molto, molto colpito, che sono: la prima è che questi bambini bisogna aiutarli a sognare, e la seconda è quest'ultima, e cioè che i bambini e le bambine hanno anche il diritto a non essere dei campioni. Io credo che con gli auguri di Natale, con un abbraccio sincero e sentito anche dal popolo di Radio 24, possiamo congedarci a questo punto. Ti ringrazio, io faccio auguri a tutti i tuoi ascoltatori, che penso, perché molti mi dicono: ah, dice, ti ho sentito con Giulio Garanzini, quindi hai molti ascoltatori. Bene. Sono contento, auguri di buon Natale a tutti, a te in particolare e ai tuoi collaboratori, e grazie ancora. Beh, dopo un appuntamento e una conversazione del genere, dopo aver tanto parlato di bambini, parlerei di un grande vecchio, ma non ne parlerei io, lo farei raccontare a Roberto Bianchi, che ha scritto un paio di mesetti fa, raccontando il seguente episodio. Ieri pomeriggio sono andato in centro a Milano per una commissione e sono passato volutamente davanti ai giardini di via Quadronno, in cui ogni tanto siede il grande vecio Enzo Bearzot, la cui vita meno nota al pubblico ho avuto modo di conoscere tanti anni fa attraverso un libro che lei ha scritto, eccetera. Ho sempre considerato un po' stupido chiedere un autografo, ma questa volta mi sono avvicinato e ho chiesto a Bearzot il permesso di stringergli la mano e ringraziarlo per quello che aveva detto e fatto per il calcio italiano. Stava bevendo un caffè seduto a fianco della sua ancora bella moglie. È vero che si può essere belli a qualunque età, sottolinea per l'appunto Roberto Bianchi. Lui ha consentito a stringermi la mano e mi ha ringraziato lui del mio gesto, dicendo che questi episodi purtroppo non gli capitano più spesso. Glielo volevo raccontare solo perché in fondo devo anche a lei il sentimento di ammirazione che nutro per il grande vecchio. Poi c'è la mail dissacrante invece di questi giorni. Dissacrante niente affatto, è un consiglio prezioso, ma l'ho letta, intendo leggerla per tutto questo periodo di vacanze, perché Dario Trinca secondo me ha centrato un problemino non da poco. Dice, ha scritto: mi sono divertito a calcolare i secondi che i suoi interlocutori sprecano per i complimenti per la trasmissione, la somma di tale tempo consentirebbe almeno uno o due interventi di altri ascoltatori. Ritengo che se la stanno ascoltando apprezzino il suo programma, e che se la smettessero quei complimenti, a volte al limite dell'imbarazzo, ne trarremo tutti un beneficio non indifferente. Ripeto, io leggo, firmo e sottoscrivo. Chiuderei questo appuntamento con un libro, che non è il classico libro di lettura, ma è un libro da sfogliare, anche perché ha una documentazione fotografica assolutamente straordinaria. È un libro per i fiorentini, io dico non solo per i fiorentini, ma certo principalmente per loro. Il titolo è Firenze, lo stadio racconta, oltre 75 anni di storia cittadina nelle memorie del Franchi. Lo ha curato Sandro Picchi, che è un giornalista storico fiorentino, di grande cultura, di grande educazione e di grande spessore. L'ho sfogliato con veramente grande piacere, perché in questi 75 anni, ripercorrendoli soprattutto all'indietro, ci sono lo stadio fiorentino ne ha davvero da raccontare. E ne ha da raccontare non solo da un punto di vista calcistico, anche se quella è la parte di gran lunga preponderante, ma perché ci sono immagini di grande ciclismo, gare finite per l'appunto a quello stadio, Partali, Adorni, ci sono match di pugilato storici, ci sono grandi riunioni di atletica leggera, c'è una foto di fiasconare i blocchi di partenza che è assolutamente splendida, e poi ovviamente c'è tanta fiorentina, c'è tanta nazionale e c'è tanto calcio. Perché vi segnalo questo libro? Non solo perché è bello, non solo perché è di grande interesse, ma anche perché c'entra Giglio Amico. Giglio Amico è l'associazione fiorentina, una onlus presieduta da Marco Viani, ve ne ho parlato spesso in questi anni. Bene, l'editore di questo libro, che è Giunti, ha consentito a mettere in vendita questo libro a soli 29 euro, e dico soli perché quando qualcuno di voi vedrà il volume si renderà conto del perché ho detto solo, e tutto questo ricavato va a beneficio di Giglio Amico. Dunque, ripeto ancora una volta il titolo: Firenze, lo stadio racconta, 75 anni di storia cittadina nelle memorie del Franchi. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata prenatalizia. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, a Flavio Suani in redazione, davvero di cuore buon Natale a tutti.